Buongiorno da San Giovanni Rotondo, qui la mattinata è cominciata con la solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Saraiva Martins sul sagrato della nuova ed imponente chiesa di Renzo Piano. Il prefetto della Congregazione per le cause dei Santi ha ricordato la figura di Padre Pio, un uomo, ha detto, che ha rivissuto nella sua carne le sofferenze di Cristo, i cui segni visibili sono state le stimmate. In questi minuti si stanno aprendo le porte della cripta di Santa Maria delle Grazie, dove da 40 anni riposa il corpo di San Pio, dal 26 settembre del 1968, giorno dei funerali. Un lungo omaggio, quello dei fedeli che oggi dovranno mettersi in coda. Solo da domani infatti scatteranno le prenotazioni, che già hanno toccato quasi il milione. Tra i fedeli anche Consiglia De Martino, la donna salernitana la cui guarigione scientificamente inspiegabile è valsa nel 99 a Padre Pio la beatificazione. L'abbiamo intervistata, sentiamo. Intanto volevo chiederle, immagino che per lei sarà una grande emozione essere qua in questa occasione, sicuramente. Lei ha già partecipato anche all'esumazione. Sì, ero presente. Che emozione è stata? Non te lo so dire, guarda, è stata una cosa inimmaginabile, che ovviamente noi dalla nostra postazione non riuscivamo a vedere granché, però alla prima rimozione del primo blocco già offre una sensazione unica, inimmaginabile, emozione fortissima. Lei è stata guarita miracolosamente da San Pio. Com'è cambiata la sua vita grazie all'incontro con San Pio, oltre che dal punto di vista chiaramente medico? Innanzitutto la mia vita era cambiata già prima, nel senso che io sono una convertita, non sono una persona che frequentava abitualmente la chiesa, per cui ho già fatto un cammino di fede e quindi posso dire che la vita è cambiata prima. Poi ho avuto questo grande dono, io l'ho preso come un dono, questo grande miracolo. Ovviamente io non mi aspettavo una cosa del genere, però è successo. Se vuoi ricordare brevemente come è guarita? Nonostante i giornali abbiano detto tante cose, in effetti io non ho avuto nessuna visione, ho solamente avvertito il profumo di fiori, dopo la seconda tacca. E a quel punto non c'era più nulla? A quel punto non l'ho detto io ovviamente, perché non è che ho parlato di miracolo oppure ho creduto in un miracolo, ecco. Sono stati i medici, perché il giorno dopo questa tumefazione che avevo non c'era più, era completamente scomparsa. Signora, un'ultima cosa, ci sono state tante polemiche per questa ostensione, come le vive lei queste polemiche? Perché secondo lei ci sono sempre polemiche intorno a Padre Pio? Perché secondo me la figura di Padre Pio è talmente grande che comunque c'è sempre gente che deve polemizzare. Innanzitutto io penso che la riesumazione in effetti è una cosa voluta dalla Chiesa, perché non è il primo santo che viene riesumato. E poi penso che se su 100 persone che arrivano a San Giovanni Rotondo se ne convertono 30, è un buon segno. E per il momento da San Giovanni Rotondo è tutto, a voi studio.